Gli affari delle mafie, i possibili affari delle mafie nelle aree interne, in aree interne come quelle bolognesi, che spesso si pensano fatte di reti sociali forti, di reti economiche che ancora reggono. E quello che siamo andati a vedere, provando a capire quale fosse la situazione, era il legame tra spopolamento e delocalizzazioni, quelle della Saga Coffee ad esempio, e quelle che ci sono state ancora prima della Saeco, e le infiltrazioni mafiose legate a un tema, cioè quello dell'arrivo di milioni di euro dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi quello che abbiamo trovato sono in particolare tre casi che testimoniano infiltrazioni mafiose che ci sono già state sul territorio dell'Appennino bolognese e che appunto raccontano il rischio altissimo che c'è in vista dell'arrivo dei soldi del PNRR, 90 milioni solo sull'Appennino. In particolare tra questi casi colpisce che, interessato dagli affari, dalle truffe anche delle mafie, ci sia un luogo simbolo che è Montesole. C'è Montesole, questo ha stupito anche noi, perché guardando le carte di un processo molto più grande, il maxi processo Nebrodi, che è arrivato a sentenza proprio pochi giorni fa, il 31 ottobre, abbiamo trovato delle particelle di terreno anche a Montesole. La maggior parte sono in Sicilia, qualcun'altra è in Abruzzo e ce ne sono anche appunto in Emilia Romagna. Si tratta di truffe che non sono facili da portare alla luce, i proprietari spesso potrebbero anche non esserne a conoscenza, però appunto sono arrivate anche luoghi simbolici come quelli del parco storico di Montesole. Si tratta dei terreni che collegano la scuola di pace con il cimitero di Casaglia, e poi vanno su fino al Cippo e giù fino all'autostrada del Sole, ed è su questi terreni che quella che viene definita la mafia dei Pascoli è riuscita a guadagnare su un totale di milioni di euro. 200.000 appunto è quanto la compagine criminale ha guadagnato su questi terreni specifici di Montesole grazie ai fondi europei per l'agricoltura. Le truffe si basano sulla falsificazione di carte per dimostrare di lavorare su particelle di terreno che sono state prese in affitto, e per far arrivare quindi fondi europei, quelli che dovrebbero aiutare agricoltori e allevatori, nelle mani dei clan, in questo caso dei clan dei Batanesi e dei Bontempo Scavo. Nel caso specifico si inseriscono anche professionisti come Giuseppe Scinardo Tenghi, che nel processo è stato condannato a 4 anni, che sarebbe quello appunto che, grazie alla sua conoscenza acquisita sui sistemi di controllo dei fascicoli aziendali e sulle vulnerabilità gestionali dei contributi comunitari, sarebbe riuscito appunto a far arrivare i fondi. Un tema che mette in crisi un po', perché appunto se si tratta di vulnerabilità dei sistemi, cosa succederà con i fondi ancora più alti che arriveranno col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? È un tema che speriamo venga preso più in considerazione. Lo spopolamento, l'abbandono dell'Appennino è un terreno favorevole per le mafie? È un terreno favorevole nel momento in cui sì, le reti sociali si sciolgono, c'è meno controllo, c'è meno attenzione e c'è anche più disinteresse. Sull'Appennino bolognese c'è stato un altro caso e un'inchiesta che è uscita sui giornali, a differenza appunto di quella che poteva essere le truffe della mafia dei Pascoli, che è il caso di una casa di riposo a Porretto a Terme che sarebbe finita nelle mani di soggetti vicini all'Andrangheta. In questo caso siamo ancora alla fase preliminare e si attende il rinvio a giudizio, però di questo caso ad esempio che c'è stato a Porretto a Terme, quindi in uno dei comuni più conosciuti dell'Appennino, se ne è parlato pochissimo, e andando un po' a parlare con le persone nessuno se ne ricordava, nessuno ne parlava. Cosa significa? Che da una parte probabilmente c'è disattenzione, c'è poca abitudine a riconoscere segnali mafiosi, dall'altra però un territorio in cui ci sono sempre più delocalizzazioni, in cui i luoghi di lavoro sono sempre meno, i posti di lavoro dati dalle fabbriche sono diminuiti in maniera drastica negli ultimi anni, come sappiamo, sicuramente aumentano il rischio che le mafie arrivino e che lo facciano in un territorio nascosto.